le divise da camerieri di Angie, come diceva Viola la stilista, noi tutti in fila come le bestie, imbranati in quella stupida veste. La festa dopo le prove iniziò, una musica, fiori viole, tipo come quando piove. Tutto era troppo in pieno, dove metteva le mani Copacabana. Io volevo solo la grana, Copacabana in bella vista, malatirando sulla lista della bula, il possibile pericolo in vista, per dire a Kelly di Faella, sto qua, ci sto ancora, sono il più grande qua. Ma subito dopo l'irruzione della bula, sta a vedere che si va in galera stavolta, la sala si fa muta e Copacabana buttato via, ma la festa doveva continuare, così diceva la sposa, doveva finire. I guaglioni senza Copacabana vennero portati via senza una paga, i raga andarono in saletta, poi lì al varo 100 euro a testa per la fatica di uno stronzo, una riga di coca e poi via di fretta, una riga di coca e poi via di fretta, una riga di coca e poi via di fretta. Il sud scorreva veloce per le vie di Porto Reale, poi d'improvviso White un colpo di commissione in viso ad Alvaro. Il SUV di sangue intriso disse l'ha giocato come disse Copacabana, nelle tasche ora avevamo un morto e la grana. Il SUV scorreva veloce per le vie di Porto Reale. Bang, bang, disse l'ha giocato come disse Copacabana, nelle tasche ora avevamo un morto e la grana. Ora avevamo un morto e la grana. Tante chiacchiere e poi Copacabana era finito come un gran fallito. Adesso cosa sarebbe accaduto? Spacciare? Per chi? Il profumo del mare continuava ad entrare e Nicolò meditò di mollare, lottare o morire provandoci. Morire provandoci. Tante chiacchiere poi Copacabana era finito come un gran fallito. Adesso cosa sarebbe accaduto? Spacciare. Perché? Il profumo del mare continuava ad entrare. Nicolò meditò di mollare, lottare o morire provandoci. Lottare o morire provandoci.